Elog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Hai un profilo Facebook? Quanti amici hai? Su Facebook 700 di più. Quante ore dedichi al giorno ai social network? Tante, troppe anzi. E potresti fare più o meno? Sì, posso se voglio staccarmene. Quanti amici hai? Sì, ce l'ho, però non entro sul mio profilo da 3 mesi e mezzo. E come mai? Perché non mi piace usarlo e poi penso che sia per le persone sole. Quanti amici hai? Non me lo ricordo, tipo 141. 700. Quante ore al giorno dedichi a Facebook? Dipende, un'oretta penso la sera. Ne potresti fare a meno? Cioè, non è che se me lo tolgono non vivo, però sì, cioè sì. 500, 400. Vabbè, beh, un'altra di quelle belle trasmissioni in cui i genitori possono dire che tempi, dove siamo arrivati i nostri ragazzi, non li riconosciamo più, ai nostri bei tempi. Questa mattina avrei voluto parlare, forse ne parlerò, se riusciremo a rintracciare l'ospite che è arrivato, perfetto, ce l'abbiamo. Parlerò allora sicuramente, senza ombra di dubbio, fino alla fine della trasmissione, su questo non ci piovrà, di una importante ricerca che è stata fatta in questi giorni. Su un campione di 2000 studenti di terza media, quindi nativi digitali fisiologicamente, oggi chi è adolescente, chi fa la scuola media, rientra comunque nella categoria dei nativi digitali. La Società Italiana di Medicina dell'Adolescenza e l'Associazione Laboratorio Adolescenza, come leggo nel solco del decennale lavoro di indagine della Società Italiana di Pediatria, ha fatto un'indagine su abitudini e stili di vita degli adolescenti italiani. E naturalmente, sovrapponendosi le due fattispecie di essere nativi digitali, quindi essere adolescenti, il punto di interesse dei pediatri italiani è proprio sul fatto che questi ragazzi hanno radicalmente e visceralmente mutato le loro abitudini relazionali. Perché? Perché sono nativi digitali, perché hanno, sto riassumendo e sintetizzando i punti della ricerca, hanno una appendice inorganica innestata al loro corpo, alla loro emotività, al loro modo d'essere, che le generazioni precedenti non avevano. Questa appendice si chiama smartphone. Uno dei dati che emerge da questa ricerca è che i ragazzi hanno possibilità di accedere a un luogo di relazione, di incontro, di socializzazione attraverso qualcosa che non è più il computer, che era facile allucinarlo come oggetto in un luogo situato ben preciso delle transumanze quotidiane nella casa, quindi il computer che era nella cameretta, il computer che era nello studio del papà, il computer che era comunque in un luogo della casa, ma no, hanno qualcosa sempre addosso, qualcosa che sta cominciando a segnare un cammino evolutivo, fa parte ormai del loro corpo. E avendo questa appendice, cosa fanno? Hanno cambiato quelle che sono le ritualità consuete dell'adolescenza dal punto di vista della gestione delle loro relazioni. Non hanno più quello che noi consideravamo l'amico del cuore, la persona di riferimento, la persona con cui avevamo una così profonda affinità che molte volte spesso ce lo portavamo dietro fino all'età adulta, fino all'età avanzata. Oggi il fatto che essere relazionati significa essere uno dei tanti punti equivalenti di un social network, questa figura è gradualmente e radicalmente scomparsa. Questo primo punto vi preoccupa? Vi preoccupa che i vostri ragazzi siano ormai in una massa diffusa di loro coetanei che li controllano, che dettano a loro stili di vita, che dettano a loro comportamenti, da quali è molto difficile essere eterodossi, cambiare, mutare, avere una sorta di guizzo di diversità? Perché? Perché si viene bannati, si viene irrisi dal gruppo, non si sta alle logiche collettive. Vi siete mai posti questo problema? 800 24 00 24. Gli adolescenti italiani dicono addio all'amico del cuore, sostituito dal gruppo e dalle amicizie in rete. Questo è il quadro che emerge dall'indagine Adolescenti e socialità, realizzata dalla Società Italiana di Pediatria. Secondo questa indagine, infatti, ben l'85% degli adolescenti dichiara di avere molti amici, mentre solo l'11% dei maschi e il 13% delle femmine dichiara di averne pochi. La novità, però, è che per il 31% dei ragazzi Internet rappresenta oggi un canale per creare nuove amicizie che diventano poi reali. Solo il 9% degli adolescenti preferisce vedersi e frequentare un solo amico o amica alla volta, mentre il 50% si riunisce prevalentemente in piccoli gruppi e il 40% frequenta un gruppo numeroso. Ma il gruppo finisce per condizionare i comportamenti. Il 52% dei ragazzi adegua infatti, anche malvolentieri, le proprie scelte a ciò che il gruppo di amici decide. Eccoci subito con la prima palpitante madre. Marta, buongiorno. 80024. Mamme, papà in ascolto, questa mattina è il vostro momento. Marta. Buongiorno. Sono qua. Sì, allora io ho tre figli, due adolescenti, due ragazze di 17 e di 15 anni che utilizzano tutti i social network che hanno a disposizione, da Facebook, che è il più generalista, a Ask e altri di cui adesso non ricordo. Ask è quello cattivo di cui abbiamo parlato l'altro giorno. Che ecco, sì, sì. Lei sì, è molto sì, preoccupata. Cattivo. No, io non sono preoccupata, faccio parte di quella schiera di madri, per fortuna, che non si preoccupa, nel senso non si preoccupa, cioè vigilo a modo mio. Lei ha i suoi figli nelle sue amicizie su Facebook? Io ho i miei figli, sì. Nelle sue amicizie. Nelle amicizie. Quindi sì, controlla sì. Il flusso delle loro attività online? Sì, controllo abbastanza, nel senso beh, che non terribile mi piace che dicono cosa. Le parolacce. Ma beh, forse quello è il problema, scusi. Vabbè, andiamo avanti. Quindi lei su Facebook invece cosa fa come mamma? Beh, di diverso mamma, dai suoi figli? No, non diciamo che non intervengo sulle considerazioni che fanno le mie figlie, vigile sì, basta. Però, quella è la sua funzione vigilante, ma la sua funzione sì. Di utente, come la svolge? Esatto. Lei avrà il suo circolo la di amicizie? Allora, io ho dei parenti negli Stati Uniti, con i quali... Beh, questa è la solita scusa, con quelli lo uso solo per salutare la nonna e mandare le foto ai nipotini, quando vedo signore con la loro rassegna delle ultime vacanze estive, dico, ma perché metti queste foto? Ma non so, perché le mando a mia nonna che sta in Australia, così mi vede. Ma che problema c'è? No, nessuno. Anche quello. Io sono l'ultimo dei censori. Però, per dire, è un'attività divertente, interessante. È un'attività divertente, ma può essere anche utile. Io non la utilizzo solo con i fini ludici, diciamo. Lo utilizzo anche per una sorta di lavoro che mi sono inventata. Io faccio parte di un'associazione di Pavia, sì. Perché ho un ragazzo autistico, il mio terzo bambino è autistico, sì. E quindi lo utilizzo anche per fini, diciamo, sociali. No, che mi possono... Lei ben sa, conosco benissimo il problema, la rete è... Praticamente in Italia è l'unico luogo in cui le famiglie che hanno dei problemi da gestire molto particolari possono avere una sorta di flusso di scambio di informazioni quando poi il pubblico è così avaro di queste informazioni. Quindi lei è il tipico esempio di madre che conosce social network, quindi è digitalmente avanzata e ha comunque un occhio verso i figli, quindi li lascia liberi però li tiene sotto controllo. Maurizio Tucci, buongiorno, presidente del laboratorio dell'adolescenza che ha curato la ricerca di cui stiamo parlando. Questo primo esempio di madre è significativo rispetto ai dati che voi avete raccolto? Questi ragazzi sanno, hanno consapevolezza comunque che c'è l'occhio vigile di molti loro genitori? Intanto buongiorno e grazie. Se i ragazzi hanno la mamma o il papà amico di Facebook, quantomeno lo sanno, quindi comunque sono consapevoli di questo fatto, se non altro perché se lo trovano all'interno delle amicizie. Indubbiamente ci sono anche madre... quelli un po' più scafati che fanno dei finti profili per controllarli meglio. Sì, ci sono anche quelli più scafati, ma ci sono anche figli più scafati che hanno due profili o più profili anche con nomi diversi che i genitori non sanno che figli hanno. È fantastico. Quindi, questo, sì. Facciamo la gara alla scafataggine, è una gara dura, quindi per ogni mossa c'è una contromossa. Indubbiamente avere un genitore che ha delle conoscenze, delle abilità, diciamo così, nell'ambito informatico, nel social network, comunque per il genitore è un vantaggio, ma io non lo considero tanto un vantaggio perché è lì presente fra gli amici a fare un po' l'occhio indiscreto, eccetera, ma può essere un vantaggio perché comunque un genitore che ha la consapevolezza dello strumento e anche della potenza dello strumento può innescare un dialogo con i propri figli e dare delle corrette istruzioni per l'uso. Io personalmente, ma non voglio criticare la mamma, il genitore che diventa amico del figlio non la vedo come la soluzione ideale. Sono d'accordo con lei. Uno a un certo punto, mamma, è chiaro, dagli strumenti deve lasciarlo andare per la sua strada, sennò Esatto, però una mamma che conosce Facebook e conosce Social Network, per esempio, può dire consapevolmente ai figli: attenzione, che quello che tu posti, quello che tu scrivi, le foto che metti non sono limitate al gruppo di riferimento che hai, ma possono avere un pubblico straordinariamente più ampio che può farne un uso non necessariamente corretto, o comunque un uso diverso da quello che tu, ragazzo che posti, hai immaginato. Quindi le abilità informatiche, chiamiamole così, dei genitori dovrebbero servire per questo. Bisogna insegnare ai ragazzi a utilizzare lo strumento, rischi compresi, perché i rischi ce ne sono, come si insegna un bambino ad attraversare la strada. E si dice: guarda a destra, guarda a sinistra, possono venire le macchine e ti spiaccicano, ma non si dice al bambino: per sempre io ti sarò dietro a vedere come attraversi la strada. È la stessa cosa. Allora, vediamo di entrare più nello specifico della ricerca, perché questa è la cosa che poi ci interessa. Ci sono chiaramente dei punti di preoccupazione, anche se non è che nessuno si strappa i capelli, sul fatto che i ragazzi perdano una loro capacità di pensiero individuale, di pensiero originale, perché in fondo le logiche del social network sono le logiche dell'adeguamento, del seguire un pensiero forte che serpeggia e dà consenso, dà la piacevolezza di avere tante persone che dicono: mi piace quello che hai detto. Questo è una fase transeunte, passeggera, secondo lei, professor Tucci, o in realtà fa parte ormai di quella che sarà la logica di pensiero dei nativi digitali anche nella loro crescita? Sì, io intanto devo fare una precisazione sull'indagine, perché l'indagine è stata diciamo realizzata essenzialmente dalla Società Italiana di Medicina dell'Adolescenza, in collaborazione ovviamente con la Società Italiana di Pediatria, però va detto che diciamo chi ha firmato l'indagine è essenzialmente la Società di Medicina. Adesso li faremo parlare, abbiamo trovato la persona referente, adesso lo faremo parlare. Sì, però risponda a questa domanda. Poi fatta questa precisazione, è una domanda alla quale è difficile rispondere. Io credo che da un certo punto di vista internet abbia definitivamente cambiato degli stili di vita. Quindi non è che un ragazzo, un nativo digitale, ad un certo punto arriva a una certa età, tot, si resetta e torna a ragionare come ragioniamo noi che non siamo nativi digitali. È un evento che ha segnato in maniera, secondo me, definitiva un modo nuovo di interpretare anche le relazioni sociali, anche il modo di essere amici, il modo di non essere. No, è molto, molto interessante quello che lei dice, io lo condivido in pieno. Sono, diciamo, i profeti di quello che sarà la nuova civiltà e dobbiamo osservarli con attenzione. Anna Maria. Buongiorno. Sì. Allora, io volevo semplicemente segnalare una cosa, che io sono mamma, ho 47 anni compiuti, due figli, 23 e 16 anni, smanettoni loro e smanettona io, forse molto più di loro, tanto che sono stati loro che hanno chiesto a me l'amicizia su Facebook e, come dicevo alle sue assistenti, non guarderò mai il loro profilo, perché è come violare un eventuale diario, come faceva mia mamma quando mi apriva il diario. Beh, un diario condiviso con fantamigliaia di persone, però. Certo, assolutamente d'accordo, però è un loro diario, decidono loro di condividere, di dire delle cose. Soprattutto quello di 23 anni, ormai fra un po' avrà problemi con i suoi figli, penso che sia passato il momento della mamma, no? Assolutamente sì, a me piace parlare con loro. È vero invece che è un nuovo modo diverso di comunicare, quindi non lo demonizzerei in questo senso. Quello che mi preoccupa, come dire, è non tanto l'adolescente, anche se in questa trasmissione ci sono tanti adolescenti, ma gli adulti che si palesano da adolescenti, che appunto chiedono l'amicizia e dopo due secondi qualcos'altro, perché pensano che all'interno di un social network, qualsiasi esso sia, anche se in quel momento si sta parlando di salame da sugo, si deve intervenire con argomenti diversi che non c'entrano niente con col salame da sugo. Bravissimo, come se appunto il social network, non dovendo metterci la faccia, è un minimo di persona, proprio la persona. Ma lei, anche lei capita di ricevere queste richieste, diciamo metaforiche, quando parla di salame da sugo? Sì, cioè io tratto di cucina nel mio blog, nei miei social, eccetera, evidentemente deve essere una cosa molto ludica o che scatena fantasie di vario tipo, per cui lì... ci si rassegna un po', che dice, dipende dalle allucinazioni indecenti che lei suscita nel suo pubblico. Comunque mi sembra che lei sia sulla strada giusta, la prende nella maniera giusta, è un posto di gioco, è un posto di lavoro, è un posto di relazione, è un posto di sperimentare se stessi anche con le diversità della stirpe umana. Pier Nicola Garofalo, buongiorno. Buongiorno a voi, eccomi. Allora, è il Presidente della Società Italiana in Medicina dell'Adolescenza che a pieno titolo ha pensato, immaginato e strutturato questo tipo di ricerca. Ecco, abbiamo sentito un paio di mamme e mi fa piacere, sono state le prime a rispondere. Corrisponde a un punto di vista probabilmente non abbastanza diffuso, che in realtà le mamme sono meno ingenue, meno lontane da un'alfabetizzazione digitale di quello che si pensi. Vediamo di toccare anche qualche altro punto di questa ricerca rispetto a questa capacità di relazionarsi ma non di impugnare la propria diversità, la propria individualità, la propria originalità di pensiero. Sì, assolutamente. Io credo che la ampia discussione su internet sia stata orientata a dare una valenza etica allo strumento. I ragazzi non si approcciano a internet per sapere se cosa c'è di buono o cosa c'è di cattivo. Lo strumento come tale è sempre neutro da un punto di vista etico. E allora perché i ragazzi sono passati dal rapporto interindividuale, l'amico del cuore, l'insegnante del cuore, l'istruttore preferito, l'istruttore di danza, di sport, di abilità, di musica, il maestro di chitarra, queste figure sono finite. Si è passati quindi da una dimensione interpersonale del rapporto a una dimensione che è stata sublimata, ma in negativo, dal gruppo. La dimensione gruppale ha sostituito quello che era un canone di rapporto tra persone, diventando un rapporto tra un individuo è diciamo la comunità allargata che non sempre gli appartiene. Perché il flusso sul social network da cui siamo invasi, attraversati, pervasi. Perfetto, i ragazzi non si calano nello strumento, noi adulti cerchiamo spesso di razionalizzare l'approccio, il loro approccio è un approccio più emotivo, per loro spesso il social network è un po' come lo specchio della matrigna di Biancaneve, cioè è il luogo su cui specchiarsi senza essere visti, è il luogo che però rappresenta spesso uno strumento di demonizzazione di se stessi, quindi non è il luogo della redenzione o della risoluzione dei problemi individuali o della validazione assoluta delle proprie idee, molto spesso diventa il luogo della confusione, il luogo dell'oblio, cioè con internet o comunque con questi gruppi nei quali il ragazzo guarda ma non viene visto. L'utilizzo della corporeità o comunque l'utilizzo, la mettere insieme in comune quello che è la propria interiorità, in internet difficilmente si trova. I ragazzi sono grandissimi elusori dei controllori, come diceva giustamente Tucci. Non pensiamo che ciò che scrivono, ciò che fanno, come si agitano sul web sia in realtà come sono davvero loro. Sono abbastanza capaci di avere un dualismo di ideazione. Che un po' l'adolescenza è sempre stato il periodo però della mistificazione, dobbiamo sempre rappresentare qualcosa che non ci colpisse in pieno, che non ci mettesse benissimo in difficoltà. Noi da adulti invece cerchiamo di codificarli in maniera statuale, per cui cerchiamo di rovistare per capire, molto spesso se rovistiamo lì da genitori o da adulti o da medici, ci perdiamo, in realtà dobbiamo essere in grado di togliere la sovrapposizione, la polvere che c'è sopra e che è data da questi messaggi che sono i più disparati, per andare invece al nocciolo. Chi sono adesso i nuovi amici dei nostri figli, o meglio, i ragazzi, che riferimenti hanno? Sono i figli degli altri genitori, che si pongono lo stesso problema. E quindi alla fine non c'è più una leadership di contenuti, come si aveva negli anni 70-80, non c'è neanche una leadership di comportamenti, come si aveva in alcuni gruppi negli anni 90, adesso è diventata una leadership che espropria le identità e dai quali i ragazzi prendono le distanze. Ecco, professore, quindi... Pier Nicola Garofalo e Maurizio Tucci, è stato molto interessante questo tipo di rassegna e devo dare la linea alle informazioni della borsa e poi dopo nella parte successiva della trasmissione chiamerò delle persone a raccontare e commentare questo tipo di ricerca. Mi interessa però immaginare che questi ragazzi in fondo saranno il mondo futuro, non saremo noi. Quindi guardando loro possono piacerci, non piacerci, possiamo per quanto possibile dilambire l'idea che loro prefigurano il mondo futuro, saranno la società che verrà e quindi dobbiamo guardare con grande attenzione quello che fanno. Melog, la realtà condivisa. Perché uso internet? Dunque, io uso internet per comunicare con le persone, per guardare ogni più curioso video su YouTube e aggiornarmi continuamente su ogni sport e altro. E le cose che mi piace, le tre cose che mi piacciono di più fare su internet sono le seguenti: andare nei social network e quindi parlare con gli amici, con le persone, giocare a poker online contro le persone dall'altra parte del mondo, mantenendo sempre una certa privacy. Certo, naturalmente, come quando chiedi a una persona per strada cosa guardi in televisione, guardo quei bei documentari di Piero Angela, stessa cosa, che deve dire l'adolescente di fronte all'intervistatore cosa fa in internet, mi consumo le diottrie con YouPorn, no, dice naturalmente faccio delle cose corrette, se gioco col videopoker naturalmente rispettando la privacy, siamo sempre alle stesse maniere di valutare quello che è un supporto di immaginario e un medium per mettersi in contatto con altre persone. Abbiamo ascoltato la ricerca, l'indagine dei pediatri italiani fatta su un campione di 2000 ragazzi della terza media, che comunque è significativa. Mi sembra di aver capito che la generale preoccupazione nasce proprio dal fatto che una generazione di nativi digitali si sta misurando con un mondo che noi guardiamo, osserviamo, ha visto nascere, abbiamo visto crescere. Per loro sarà l'unico mondo possibile. E quindi giusto essere preoccupati perché i ragazzi hanno scambiato le connessioni con le relazioni, come si stracciava le vesti tanto tempo fa un buon vecchio che ha detto tante cose giuste e altre molto meno giuste. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Stefano Morigi, filosofo e storico della scienza, questo è un tema a lui molto caro. Come vedi, come hai ascoltato fino a poco fa, adesso nella fase di osservazione e valutazione, quella che era la ricerca, siamo sempre a un antichissimo discorso. Le generazioni precedenti guardano le generazioni future e dicono, ma Dio mio, dove andremo a finire? Sì, è la solita questione, le novità spiazzano. E quando uno si sente spiazzato, la cosa più comoda, la scorciatoia più a portata di mano è rifugiarsi in un passato riletto specie nei termini dell'età dell'oro, che non è mai stata peraltro quando a sua volta era presente. È una strategia psicologica che dovrebbe preoccupare la riflessione soprattutto degli addetti ai lavori quando viene istituzionalizzata in ricerche o in comunicazioni attraverso i media. Certo, la tecnologia sta cambiando i modelli di relazione tra le persone, lo sappiamo, è sempre, l'ha sempre fatto, Stefano. È sempre successo, sempre accaduto, perlomeno di Gutenberg in avanti, se non vogliamo ancora andare più indietro. Si tratta di capire come e perché, senza costruire quelli che il grande filosofo Francesco Bacone all'alba della grande rivoluzione scientifica chiamava idoli. Costruire idoli non aiuta neanche a intuire rischi e problemi, si tratta di capire nelle pieghe della scienza quali sono le logiche e le semantiche di una trasformazione che sta cambiando radicalmente il modo di stare al mondo. Capire senza costruire idoli, una raccomandazione che a quanto pare è sempre attuale. Io aspetto con grande ansia, se ci arriverò con tutte le mie sinapsi a posto, al momento in cui i nativi digitali diventeranno grandi, saranno naturalmente loro a fare le ricerche, faranno delle ricerche sui nostri riflessi di parvenu digitali o digitali emigranti, digitali arrivati con grande fatica, e diranno, vedete come consideravano e valutavano il mondo. Andrea Rossetti, buongiorno Andrea. Buongiorno. Io sto chiamando tutte le persone con cui abitualmente mi confronto quando analizzo quello che è lo scorrere e l'incrociarsi della civiltà digitale con il mondo analogico che noi comunque stiamo vivendo, stiamo percorrendo. Andrea Rossetti, ricordo, è professore di filosofia del diritto e docente di informatica giuridica all'Università Milano Bicocca. Tra l'altro, Andrea, anche tu stai per misurarti in un'analisi sul rapporto fra tecnologie e adolescenti? Sì, stiamo in questi giorni iniziando a testare un questionario che sottoporremo nei prossimi mesi a un grande numero di studenti universitari, insomma forse post-adolescenti potremmo definirli, per cercare di migliorare una delle cose più importanti in questo campo, ossia la percezione del rischio che hanno coloro che vanno in rete, cioè quanto ritengono pericoloso usare la rete coloro che la usano da nativo digitale, insomma, perché ormai siamo veramente alle soglie di coloro che sono nativi digitali. E noi cercheremo appunto Esiste un punto zero in cui si dice da oggi nascono nativi digitali. Quanti anni dovrebbe avere oggi il nativo digitale? No, della prima generazione, della prima completamente arbitrario, però noi pensiamo che un nativo digitale è nato intorno alla metà degli anni 90, insomma, ecco, potevo dire il 95, diciamo così. Quindi i nativi digitali sono quelli che si affacciano, stanno per affacciarsi all'università in qualche maniera. Beh, un mio figlio è del 95, quindi io diciamo ho delle epiche ricorrenze per i miei figli, le due versioni più arcaiche inizialmente attendibili di Windows, che è Windows 95 e Windows 98, così mi ricordo le date di nascita. Quindi un diciottenne oggi che ha appena compiuto 18 anni è un nativo digitale a tutti gli effetti. È ormai un nativo digitale, insomma, sicuramente ha sempre vissuto in un contesto in cui gli era facile, gli era semplice o gli era quantomeno possibile utilizzare tecnologie digitali. È chiaro che anche qui parleremo di gradi, perché naturalmente il bambino che nasce oggi avrà una familiarità con tecnologie che il nativo digitale non conosceva, perché banalmente 20 anni fa, 18 anni fa. Soprattutto i social media per un diciottenne sono anche quello un punto di conquista. Facciamo l'esempio proprio sulla mia carne. Il mio primo figlio, nato nel 95, le prime strumentazioni che uscivano dalla regola dei giochi finora utilizzati erano una tastierina israeliana, me la ricordo ancora, in cui pigiavi dei tasti, la collegavi con un'interfaccia al tuo PC e facevi alcuni giochi, sceglievi i colori, era la prima cosa, c'aveva il telefono e potevi telefonare. Poi è passato subito ai primi videogame. Oggi, diciamo, un ragazzino di 4-5 anni sa esattamente come collegarsi con altri suoi amichetti attraverso i social media. Ah beh, sicuramente la novità, la grande novità degli ultimi anni è quello appunto dei social media, quindi i nativi digitali non li conoscevano, banalmente anche qui nel 95 non c'erano, e sicuramente i social media sono gli oggetti a cui maggiormente ambiscono entrare adesso i preadolescenti. Insomma, anch'io ho un ragazzino che è alla soglia dell'adolescenza e insomma, lui ha Facebook, però vediamo che moltissimi dei suoi compagni non ce l'hanno perché i genitori non glielo consentono, però il loro desiderio è proprio di poter iniziare a usare Facebook banalmente anche per restare in contatto con gli amici e con compagni di scuola, insomma, non per chissà quali motivi trasgressivi. Infatti uno dei sensi diventata uno dei canali attraverso i quali comunicano semplicemente, no? Come il telefono, l'SMS, in più c'è anche Facebook. Diciamo che le ricerche si fanno in questo senso certificano la realtà dei fatti, che i ragazzi non abbiano più un amico del cuore, ma l'amico del cuore naturalmente vale tanto quanto gli altri amici che ha nel suo profilo del social network. Mia figlia ha 10 anni. Ha un computer, un telefonino che cerchiamo di farlo il più possibile, ha una casella di posta elettronica e ora vuole un account sul Messenger e una webcam. Io non gliela compro, ma cosa ne pensi? Stefano Morigi, vediamo di ridare punto per punto un senso di attenzione a questa ricerca. Dicono i pediatri che hanno analizzato i ragazzi che questi ragazzi hanno questa possibilità di aver dimenticato l'amico del cuore, che è un'immagine un po' proprio da libro cuore garroniana, l'amico del cuore. Io l'amico del cuore non, sinceramente non me lo ricordo più, sarà morto, non so, sarà sopravvissuto, è stato sovrascritto da mille altre amicizie. Comunque c'è ancora un ideale amico prediletto, e oggi i ragazzi, siccome si connettono, non hanno più relazioni ma hanno connessioni e relazioni, quindi non c'è più l'amico del cuore, valgono tutti quanti, sono gli amici del social network. Non conosco i dati di questa ricerca nel dettaglio, ma se fosse come tu me la dipingi sarebbe... Naturalmente io l'ho orrendamente storpiata, certo, e personalizzata. Sarebbe persino una cosa positiva. Una delle grosse difficoltà degli adolescenti e dei preadolescenti è anche quella di socializzare con loro coetanei di provenienza, di estrazione sociale diversa. Se davvero questa ricerca riesce a dimostrare che in un qualche modo, al di là di rapporti esclusivi, si riesce a integrare la frequentazione ampliando la cerchia, per usare un altro termine tecnico, degli amici, ben venga. Io posso dirti che in questo periodo a Pordenone sto conducendo una sperimentazione di didattica digitalmente aumentata in scuole primarie e secondarie, e quello che vedo è che sui ragazzi e la testimonianza delle docenti che ne fanno parte in qualche senso va a leggere questi dati che tu mi proponi in chiave positiva, cioè la tecnologia, laddove usata sensatamente con modelli di didattica accompagnati da un ragionamento appropriato senza idoli sulle tecnologie, facilitano non solo la collaborazione sui contenuti, sulla ricerca, sull'approfondimento, ma anche le relazioni tra pari. Ora, certo, se la tecnologia viene usata in modo forsennato produce disastri, come qualsiasi altra cosa. Le grandi trasformazioni che le macchine hanno dettato alla storia della nostra umanità hanno prodotto disastri tutte quelle volte che non siamo riusciti a pensare con loro e attraverso di loro, ridefinendo quali sono gli orizzonti di senso e di valore della nostra cultura. Quindi mi sembra di capire che l'idolatria, come storicamente sempre accaduto, nasce dalla superstizione. Il fatto che noi consideriamo idoli quelli che sono oggetti di uso comune, non ha nessun significato trascendente, metafisico e via dicendo di questi ragazzi, fa sì che noi non valutiamo esattamente che sì, oggi magari ci sembrano privi di spazi vuoti, sono sempre occupati, hanno sempre in mano lo smartphone, che dalla ricerca emerge come il primo strumento di accesso alla realtà digitale, alla realtà della rete, però allo stesso tempo, facendo questo, cresceranno e avranno una maniera per misurare il mondo e per misurare se stessi senz'altro più efficace, senz'altro diversa, senz'altro sicuramente più adeguata a quelli che sono i tempi che stanno vivendo. Sai Gianluca, c'è un'altra osservazione che ritengo opportuno fare e che in qualche modo un grande sociologo francese, che è Michel Serre, ha proposto con il titolo provocatorio, che in realtà è una citazione di un suo ultimo libro tradotto in Italia, cioè non è un paese per vecchi, no? In realtà non è un paese, il nostro in particolare, per vecchie categorie. C'è un problema epistemologico di fondo. Non è detto che le categorie di interpretazione e di comprensione del mondo con cui abbiamo compreso un certo tipo di realtà, che si è squadernata in un certo periodo storico, possano essere ancora utili per intendere quelle che saranno le evoluzioni della cultura che ci stanno attendendo negli anni a venire. Ma proprio per questo viene chiamata rivoluzione digitale, perché in realtà non è stato percepito a fondo quanto realmente sia rivoluzionario, quanto realmente cambia il nostro modo di percepire la realtà il fatto che noi abbiamo, a detta degli osservatori spaventati, questi giocarelli in mano. Melog, la realtà condivisa. Gli adolescenti non hanno nessuna intenzione di isolarsi, hanno bisogno di vivere in conformità del gruppo, hanno bisogno di avere qualche cosa che li standardizzi verso i loro coetanei, che li faccia accettare. Quando erano ragazzino io ero il motorino, dopo sono state le Clark, dopo il cellulare, dopo la PlayStation. Stiamo lambendo con divertimento e anche con grande fatica, perché è difficile ammettere in realtà che il tempo nostro è passato. Siamo degli osservatori, cerchiamo di comprendere, facciamo i giovani, facciamo gli interpreti intelligenti, ma in realtà ci comincia a sfuggire sempre di più e si sta allargando questa forbice fra un nativo acquisito faticosamente e concretamente costruito e un nativo digitale, che è tutt'altra cosa. La rivoluzione reale è concreta, è irreversibile. Siamo partiti da una ricerca fatta dai pediatri italiani e la stiamo analizzando con alcuni amici che di questa materia hanno fatto la ragione dei loro studi. Una delle dei punti dolenti di questa ricerca è data dal fatto che i ragazzi, sì, hanno una via di accesso personalizzata, sempre più personalizzata e sempre più individuale al mondo della collettività digitale. Hanno rinunciato, ma abbiamo già detto che non è poi questo un grande limite, all'amico del cuore molto meglio, avranno meno occasioni di disillusione nella loro fantastica adolescenza. Però il gruppo che è composto dalle loro connessioni alias relazioni è un grande strumento di controllo e di omologazione. Dicono i pediatri italiani, sì, ma è difficile stabilire l'orgoglio di una diversità, di una originalità di pensiero in un luogo in cui naturalmente tutti ti guardano, tutti ti osservano, se non stai alle regole poi vieni bannato. Andrea Rossetti è professore di filosofia del diritto, docente di informatica giuridica all'Università di Milano Bicocca. Sì, questo è sicuramente uno dei problemi della comunicazione in rete, no? Già rilevata da studiosi di altro genere. All'interno di un gruppo c'è un tentativo, c'è la tendenza sempre ad omologarsi a coloro che hanno le opinioni più estremiste o che hanno le posizioni più originali. È quindi chiaro che avere una tendenza gregaria all'interno della rete in qualche modo è più facile. È anche vero che però... Ne parlammo dolorosamente quando analizzammo e pagammo molto caro il fio di questo nostro... Pensare agli albori del Movimento 5 Stelle, quando sembrava che ci fosse, adesso un po' si è scemata questa idea e sono ritornati a osservare la rete per quello che è, ma ti ricordi c'era questa idolatria della rete come bambini, certo. La rete vince, uno vale uno. Certo, ma questa idea insomma c'è ancora in molti politici, insomma, poi quelle 5 Stelle in qualche modo l'hanno portato ideologia, però questa idea si vede insomma, in piccole città come la mia, in cui ci saranno tra poco le elezioni amministrative, si vede che i politici pensano ancora alla rete come strumento attraverso il quale si può fare unicamente pubblicità a senso unico e attraverso il quale poter portare a casa voti senza rendersi conto della funzione intrinsecamente ideologica della rete. Ma sai, una riflessione che ho fatto anch'io, chi vince urla di più in rete poi, perché il problema è anche questo. Certo, no? Ma una riflessione che ho fatto anch'io, ma poi rientriamo subito nei percorsi della nostra riflessione, quando nella giornata di ieri, ma in parte con alcuni cascami anche oggi, l'argomento del giorno era il videomessaggio di un importante leader politico, che ancora si usi il videomessaggio come tentativo di riproduzione di un pensiero, quando significa che siamo molto legati a una maniera tradizionale di trasmettere pensieri forti eventualmente. Abbiamo al telefono adesso un nuovo ospite con cui interloquiremo, Paolo Ferri, buongiorno. Sì, buongiorno. Docente di tecnologie didattiche all'Università Milano Bicocca. Paolo Ferri è specializzato proprio nel trattamento di nativi digitali. Sei d'accordo, Paolo, che in realtà il nativo digitale perde originalità e spessore e valore di pensiero non omologato nella sua continua ripercussione attraverso i contatti in rete che diventano relazioni? Ma dunque, in realtà... Sono d'accordo e non d'accordo insieme, cioè i nativi digitali hanno delle caratteristiche specifiche, cioè sono nati dopo internet e questo è un evento dirimente che separa una generazione da un'altra, ma anche forse un tipo umano da un altro. Nascendo dopo internet sono abituati si stanno abituando e ci stanno anche insegnando, se vogliamo guardarle, forme di comunicare e di agire in maniera comunicativa diverse da quelle tradizionali. Ma sono loro a insegnarci, Paolo? Non è mica sono tanto convinto. Quale comportamento di noi digitali, emigranti digitali, chiamiamoci così, è mutuato da dei comportamenti di relazione che vediamo compiere ai nostri figli? Sembra che le cose prima le facciamo noi adulti. No, appunto, quello che dicevo è posto che noi stiamo a guardarli, cosa che assolutamente non facciamo. Per cui nei fatti poi, posto che al momento i nativi digitali sono nelle scuole primarie o al massimo alle scuole medie, in realtà non abbiamo ancora coscienza di come si manifesteranno poi nelle loro forme comunicative. E in realtà il brodo comunicativo nel quale viviamo è in effetti un mix di vecchi, per così dire, ma ancora attuali media e comunicazione digitale, dove appunto si è fatta e si fa una grande demagogia sul ruolo innovativo della rete. Ora la rete potrà e potrebbe innovare, quando non fosse usata sta arrivando un treno, quindi spero non mi perdiate, quando fosse usata in maniera realmente nuova, cosa che non può essere fatta da persone che sono abituate alle forme tradizionali della comunicazione. E tutte le mutazioni antropologiche sono lente. Oggi Grillo è la manifestazione, a mio avviso, di come si può comunicare in maniera veteromediale attraverso la rete. So che c'hai dei problemi, Paolo, ti lasciamo correre come il dottor Zivago dietro al tram, dietro al tuo treno. Riprendo con, grazie al professor Paolo Ferri, riprendo con Stefano Moriggi, però su questo forse c'è una meritoria riflessione. Però noi viviamo, noi sempre nativi acquisiti o immigranti, in una sorta di residua mitologia rispetto a quello che è la rete. La rete ha un po' sostituito l'aldilà, l'universo imprescindibile e imperscutabile, ma per i ragazzi diversamente è semplicemente un mezzo per vedersi con altre persone, per sentirsi. Non fanno più differenza fra una connessione e una relazione, questo è il punto. Non c'è per loro più soluzione di continuità. Che invece continuano a resistere in chi analizza dall'esterno, e intendo per esterno anche in termini anagrafici, questa trasformazione. In questo senso prima dicevo che bisogna anche ridefinire le categorie di interpretazione di un fenomeno così radicalmente nuovo e ancora per molti aspetti conosciuto. Volevo fare un'osservazione sui rischi del conformismo. Non appartengono necessariamente strutturalmente alla tecnologia e al mezzo. E in un bellissimo libro pubblicato qualche anno fa da Codice, dal titolo Evoluzione culturale, il professor Luca Cavaldi Sforza, che è uno dei massimi esponenti mondiali della genetica delle popolazioni, ha mostrato che come evolvono le idee, diciamola così, per non usare una parola più tecnica da stiamo chiudendo, andiamo al concetto. Esatto, e le idee evolvono con logiche conformiste, la tecnologia sta facendo la stessa cosa, e bisogna capire come inserirsi in questa tendenza al conformismo che è propria delle popolazioni e delle genti e interagirci nel modo più quindi anche noi possibile. Conformisti facciamo la nostra funzione, diamo l'ostacolo giusto alle idee perché evolvano. Ci sentiamo lunedì.